Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Molte scuole della regione rischiano un gennaio con bilanci in rosso o quasi. Gli istituti hanno dovuto infatti anticipare dai propri fondi i soldi per gli acquisti del materiale previsto dal PNRR, perché il governo non ha ancora erogato nulla. Un esborso che andrà a penalizzare attività didattiche. Il 2024 dei lavoratori Electrolux di Porcia inizia con la preoccupazione. Già dal primo giorno di rientro in azienda, dopo uno stop di quasi 3 settimane, l'orario è ridotto di 2 ore e lo sarà per i prossimi mesi, forse anche fino a giugno. Domani al Ministero delle Imprese a Roma si riapre il tavolo sul futuro di Varsila, un incontro che almeno i sindacati sperano sia decisivo per delineare il destino di circa 300 lavoratori. Gli ammortizzatori sociali sono intanto scaduti. Nelle farmacie mancano alcuni medicinali e durante il picco dell'influenza mancano anche quelli utili a lenire febbri e dolori di stomaco. Siamo andati a vedere com'è la situazione a Udine. Luigi Di Ruscio, 60 anni, originario di Bari, è il nuovo questore di Gorizia. Ha preso servizio ufficialmente oggi, sostituisce Paolo Gropuzzo, andato in pensione a fine anno. Più spazi per prendere il sole e rilassarsi e più servizi. Diffusi i risultati del sondaggio proposto dalla regione sulla riconfigurazione di Barcola. I risultati sono stati consegnati ai progettisti di Metroarea, incaricata di immaginare la nuova linea della costiera triestina. Più di 8.000 persone hanno risposto alle 20 domande del sondaggio. Dopo oltre un mese di gioco, 275 partite tra 59 squadre, e quasi 600 giocatori, si è concluso ieri sera a Ronchi dei Legionari il campionato di curling Bisiac, che ha visto trionfare nella finalissima la squadra di Villa Raspa di Staranzano. In 9 anni la manifestazione ha conosciuto un incremento di partecipanti e pubblico oltre ogni aspettativa. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. Riapertura amara per molte scuole che rischiano un mese di gennaio con bilanci in rosso o quasi. Hanno dovuto anticipare di tasca propria i soldi per gli acquisti del materiale previsto dal PNRR, perché il governo non ha ancora erogato i fondi. Risultato, tante attività dedicate ai ragazzi salteranno. Montano gli arredi appena acquistati nel primo giorno di scuola post vacanze di Natale gli operai all'Istituto Volta di Trieste. Si tratta di tavoli moderni per la cosiddetta didattica innovativa prevista dal PNRR. Il problema è che l'acquisto di questo materiale è stato fatto dalle scuole anticipando i soldi promessi ma non ancora arrivati dal PNRR. Risultato, le casse della scuola languono. Succede al Volta, ma è così in tutta Italia, e a saltare sono i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, come ci racconta la dirigente scolastica dell'Istituto Igea Cuccia. Lei dice: noi abbiamo dovuto anticipare i soldi, nelle casse ci restano poco più di 20.000 euro e quindi non possiamo fare altro. Esatto, non possiamo portare avanti tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, come la preparazione ai test di ammissione all'università, corsi di inglese per i ragazzi o progetti di attività laboratoriale che venivano fatti fino all'anno scorso. Lei dice benvenga tutta questa nuova tecnologia, però poi va alimentata. Per esempio avete dovuto già ampliare i server, pagare altre spese e speriamo che poi i soldi arriveranno. Ci fa degli esempi di quello che avete dovuto spendere per poter supportare questa didattica? Abbiamo già, come ha detto lei, ampliato il server della scuola per poter far funzionare tutto, abbiamo acquistato le bombine delle stampanti 3D che sono arrivate per poterne usufruire e quindi speriamo che arrivino dei fondi maggiori negli anni successivi alle scuole per poter mantenere tutto questo. Trieste, Nevi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il mondo del lavoro iniziamo da Electrolux, dove oggi è ripartita l'attività ma a scartamento ridotto. La situazione e le prospettive nello stabilimento di Porcia. Il 2024 dei lavoratori Electrolux di Porcia inizia con un punto di domanda, perché già dal primo giorno di rientro in azienda, dopo uno stop di quasi 3 settimane, l'orario è ridotto di 2 ore e lo sarà per i prossimi mesi, forse anche fino a giugno. Nello scorso anno sono state almeno 26 le settimane in cui si è attinto ad ammortizzatori sociali. C'è poi in calendario per il 17 gennaio un coordinamento nazionale tra aziende e sindacati, in cui dovrebbe essere spiegato in dettaglio quali stabilimenti e in quale misura scuola saranno coinvolti dalla decisione di tagliare 3.000 addetti a livello mondiale. Spiega Gianni Piccinin, segretario regionale FIMCISL. Stiamo aspettando in questi giorni l'ufficialità di dove ci incontriamo e lì, in quell'incontro, sapremo di questi 3.000 quanti in Europa e soprattutto, per quello ci riguarda, quanti comunque in Italia. In questi giorni sono usciti dei numeri, si parlava di 400 un giorno, di 200 un altro giorno Porcia, ma sono dati che francamente io non so da dove comunque arrivano. Nel contempo si sono susseguite voci di varia provenienza in merito ai possibili esuberi che potrebbero perdere il proprio impiego. Commenta Elisabeth Fanella, RSU Electrolux per FIMCISL. Sappiamo che verranno colpiti maggiormente gli impiegati, con che numeri ancora non lo sappiamo, non sappiamo come viene colpita in questo caso qua Porcia. Se le risoluzioni del contratto dovessero riguardare davvero i colletti bianchi, lo stabilimento pordenonese potrebbe subire un grave colpo a causa della composizione degli addetti. Chiarisce Walter Zoccolan, RSU Electrolux per FIOM CGL. Nel compressore di Porcia, che è sede nazionale del gruppo, sono allocate la maggior parte delle risorse cosiddette dei colletti bianchi. Più o meno si divide in 1.500 lavoratori impiegati e 800 lavoratori operai. Ricordo che comunque gli impiegati di Porcia lavorano anche per le altre aree del mondo, la ricerca, le aree business, la progettazione. Lavorano per tutte le tipologie di prodotti, per tutte le fabbriche. Pordenone, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla Varsila, attorno al cui destino si formulano ancora solo ipotesi, ma sono diverse centinaia le famiglie che aspettano di sapere se la fabbrica di Sant'Orligo riprenderà a produrre e a dare lavoro. Domani pomeriggio le parti si ritrovano attorno al tavolo al Ministero delle Imprese a Roma. Il contratto di solidarietà è scaduto alla fine dell'anno. Per 8 giorni i lavoratori del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra, che Varsila intende dismettere, sono stati tenuti a casa e ora attendono con ansia la giornata di domani. Sindacati e azienda tratteranno sulla proroga degli ammortizzatori sociali per 6 mesi. Massimiliano Ciarrocchi, direttore di Confindustria Alto Adriatico. In questo momento è fondamentale, da un lato, dare tranquillità a quei lavoratori, parliamo di quasi 300 persone che sono lì e non sanno cosa sarà della loro vita, dall'altro abbiamo bisogno di 6 mesi di tempo per creare insieme alle istituzioni e insieme a, in questo momento, l'unica azienda che si è affacciata, creare le condizioni per un accordo di programma che porti alla reindustrializzazione di quel sito. In pista al momento c'è il gruppo Ansaldo, che pensa di produrre energia ricavata dall'idrogeno verde e prevede una progressiva entrata dei lavoratori fino al 2030. Antonio Rodà, segretario della UILM di Trieste. C'è da capire se questi numeri si possono incrementare, se Mitsubishi ha ancora un ruolo e può sviluppare effettivamente poi una partnership o portare comunque delle attività accessorie e se ci sono le condizioni all'interno dell'accordo di programma per far insediare anche altre attività produttive. Per gli industriali l'abbandono dell'attività produttiva da parte di Varsila non significa però la perdita della vocazione all'impresa del territorio. Trieste sta comunque attraendo attività industriali, penso alla BAT che si è insediata 2 anni fa, penso alla Barilla, penso al fatto che con l'accordo di programma possiamo disegnare un nuovo futuro anche per l'area industriale di Bagnoli della Rosandra. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 53 anni di Bertiolo è morto nella notte all'ospedale di Udine per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada regionale 252 napoleonica. Secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente, dopo un violento scontro con un'altra vettura, il veicolo su cui si trovava la vittima è finito in un fossato. Ferito ma non in gravi condizioni anche l'altro conducente, un uomo di 49 anni originario di Trieste, che è stato accompagnato in ambulanza a Palmanova per accertamenti. Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre l'uomo dall'auto. L'uomo è deceduto all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era stato portato in ambulanza. In un altro incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a San Martino al Tagliamento, era morto un imprenditore di San Giorgio della Richinvelda, Gildo Volpatti, di 77 anni. La sua auto era finita fuori strada. L'uomo era morto all'ospedale di Pordenone, dove era stato ricoverato in condizioni molto gravi. Nessun'altra vettura sarebbe stata coinvolta. Si ipotizzano perciò una distrazione o un malore. Antiacido, insulina e antibiotici fra i farmaci carenti in questo periodo, ma secondo Federpharma in molti casi è possibile reperire degli equivalenti. Nella farmacia del dottor Gabriele Beltrame, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Udine, proviamo a fare una ricerca nel sistema Cerca Farmaco per uno dei prodotti che oggi si fa più fatica a reperire, un aerosol cortisonico in fiale. Una confezione la si trova comunque presso un altro specialista a 3 km di distanza. Nel 2023 in laboratori galenici come quello di Santa Maria la Longa si era arrivati a preparare anche ibuprofene in sciroppo per bambini o tachipirina, farmaci di uso molto comune. Allo stato attuale queste carenze così importanti non ci sono. Quest'anno, in pieno picco influenzale Covid, segnalata la penuria di alcuni antiacidi per il bruciore di stomaco, insuline per il diabete o antibiotici come l'amoxicillina. Il problema però non è così drammatico come il periodico elenco dell'Agenzia Italiana del Farmaco porterebbe a pensare, indica Paolo Schincariol, membro dell'AIFA. Molti farmaci in quella lista, aggiornata al 5 gennaio, non hanno più mercato da tempo. Gli ospedali inoltre possono provare a importarli dall'estero su autorizzazione della stessa AIFA e fornirli alle farmacie ove necessario. Luca De Grassi, presidente regionale di Federpharma. Consigliamo sempre di rivolgersi al farmacista di fiducia perché c'è la possibilità di avere prodotti analoghi o equivalenti con i quali si può risolvere il problema. Ancora il dottor Gabriele Beltrame. Il farmacista è in grado di rispondere alle emergenze anche con l'attività galenica nella preparazione autonoma del farmaco, garantendo alle persone di potersi curare. Lo stop ai transiti del canale di Suez, annunciato da alcuni giganti della logistica, potrebbe portare ulteriore incertezza, però nelle prossime settimane. I principi attivi si producono infatti in Cina e India, dovendo circumnavigare l'Africa, costi e tempi di trasporto aumenteranno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cambio della guardia alla questura di Gorizia. Dopo Paolo Grupuzzo, andato in pensione lo scorso 31 dicembre, arriva Luigi Di Ruscio, 60 anni, barese. Da 3 anni prestava servizio a Trento. A Gorizia per diversi anni era già stato vicario del questore e sovrintendente della divisione anticrimine. I reati nell'Isontino sono in forte calo con 2023 che fa segnare per diversi crimini un meno 30% su base annua, quasi al livello del periodo pandemico. Lo ha annunciato Luigi Di Ruscio, che si è presentato alla stampa come nuovo questore di Gorizia. Per Di Ruscio un ritorno in città dove ha operato da dirigente per 8 anni. Certo, diverso adesso operare da questore con tutte le responsabilità che ne conseguono, ma ho il vantaggio di aver trovato una realtà egregiamente condotta dal mio predecessore Paolo Gruppuzzo, per cui non devo fare altro che seguirne la linea. In questo contesto una delle priorità di Di Ruscio è migliorare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini, che non sempre va di pari passo con quello che evidenziano le statistiche. Uno dei suoi compiti è la gestione del centro per rimpatri di Gradisca, che negli ultimi mesi ha visto più di qualche rivolta e fuga. Queste cose nei CPR sono cicliche, accadono spesso, soprattutto quando arrivano personaggi che sanno di non avere altre chance nel proprio paese perché hanno commesso gravi reati nel nostro paese, e questi normalmente si fanno da capopopolo e originano queste rivolte. Da un anno all'altro sono raddoppiate le richieste di asilo, appesantendo il carico burocratico e amministrativo per la questura, ma Di Ruscio guarda il lato positivo: ogni persona che chiede asilo è una persona che identifichiamo, dice. Sotto il suo mandato ci sarà la gestione della sicurezza per Gorizia e Nova Gorizia 2025, capitale europea della cultura. Per l'occasione ci saranno rinforzi, assicura. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Stupore da parte di WWF e Legambiente per la richiesta del gruppo Danieli di consegnare i nomi dei 24.000 sottoscrittori della petizione contro l'acciaieria Ussa-Corno nella laguna di Grado e Marano. La richiesta è stata rivolta alla regione Friuli Venezia Giulia, che l'ha respinta. Si tratterebbe, secondo le due associazioni ambientaliste, di un'intimidazione inaudita da parte di un gruppo industriale che afferma di voler produrre l'acciaio in modo sostenibile. WWF e Legambiente ricordano l'importanza della partecipazione, sottolineata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. L'atto compiuto dal gruppo Danieli, sostengono, pare voler tendere a ledere il più elementare diritto e dovere dei cittadini alla partecipazione. Come associazioni saremo ancor più attenti e severi nel giudicare il merito, ma se si prescinde dalle più elementari regole democratiche e si cerca addirittura di forzare la giurisprudenza chiudendo gli spazi di partecipazione per i cittadini, è ovvio che il confronto diventa molto difficile. Vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è nuvoloso sulla regione ed ecco le temperature registrate alle 11. A Trieste 5 gradi e alle 11 il vento soffiava ad una velocità di 35 km orari da est. Nella notte bora sostenuta con raffiche che avevano raggiunto i 70 km orari. A Pordenone 8 gradi e mezzo, a Udine 7, a Gorizia 6, a Tolmezzo 5 gradi, Piancavallo 4, Forni di Sopra 3, Tarvisio 5 decimi di grado, a Sappada meno 2, sul Monte Lussari meno 6, sul Monte Zoncolan meno 3 gradi e mezzo, a Lignano 8 e mezzo e a Grado 7. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo nuvoloso coperto, soffierà vento moderato da nord o nord-est in pianura, sostenuto in quota sulla zona montana, bora sostenuta o forte a Trieste e sul Carso. Temperature in generale calo rispetto ai giorni scorsi. Il Comune di Trieste informa che a causa delle condizioni meteorologiche avverse, i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico fino al miglioramento della situazione. Fra gli altri resteranno chiusi ad esempio il giardino pubblico De Tommasini di Via Giulia, il giardino Falcone Borsellino di Altura, il giardino Basevi, il giardino di Via San Michele, quello di Villa Kosulic in strada del Friuli, l'area verde di Villa Engelmann, il parco Bazzoni, il giardino di Piazza Ortis e quello di Villa Revoltella. La regione, che intende assieme al comune ripensare il lungomare triestino di Barcola, aveva lanciato un sondaggio popolare. Oggi ne sono stati resi noti i risultati. Più spazi lungomare per prendere il sole e rilassarsi e più servizi. I risultati del sondaggio proposto dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro in merito alla riconfigurazione di Barcola sono chiari. Sono stati esposti questa mattina, consegnati ai progettisti di Metroarea, incaricata di immaginare la nuova linea di costa barcolana. Più di 8.000 le persone che hanno risposto alle 25 domande del sondaggio divise per aree tematiche. In 2.500 hanno anche scritto quello che pensano in una sezione apposita. Molte proposte si sono rivelate in linea con il pensiero delle associazioni di categoria già espresse durante la prima fase di presentazione del progetto. Ad esempio, il 73% dei sondaggisti vorrebbe un ampliamento della superficie di spiaggia di Sassi o Ciottoli e avere altri moli e strutture verso il mare. Le strutture balneari, la loro fruizione da parte dei più fragili e dei bambini, le superfici disponibili e i servizi in generale hanno incontrato nel sondaggio un senso di inadeguatezza. Emerge chiaramente la preoccupazione per il riscaldamento globale e la conseguente necessità di difendere la costa con strutture efficienti e longeve. Questo progetto si aggiunge ai lavori già programmati per ripristinare le aree devastate dalla mareggiata in tempo per l'estate. Il sondaggio analogo lanciato dal Comune di Trieste si è chiuso ieri. Nelle prossime settimane ci saranno incontri di confronto tecnico e politico fra regione e comune per condividere i risultati dei rispettivi sondaggi e definire il cronoprogramma che porterà a ridisegnare la nuova linea di costa di Barcola. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina sportiva, cominciamo col calcio, tornando sulla sconfitta dell'Udinese ieri al Friuli contro la Lazio, un 2-1 che brucia. Aquile laziali in volo al Friuli, rapace più che mai grazie ad una vittoria che proietta la squadra biancoceleste in zona Europa. L'Udinese, preda dei suoi errori, rimane nella terra del pericolo a più tre sulla zona retrocessione, battuta dal gol di Vessino e dall'incertezza di una difesa poco sicura. Lo dimostra anche il primo gol subito, quello di Pellegrini su punizione sul palo difeso da Okoye. La differenza, facile dirlo, la fanno i cambi. Vessino, Felipe Anderson, Pedro e Lazzari sono le scelte di Sarri nel secondo tempo. Camara, Success e Isibue, nel finale Toven e Davis, quelle di Cioffi. Senza dimenticare però che la Lazio scontava le assenze di Immobile e Luis Alberto e che i biancocelesti sono ancora impegnati su tre fronti: Champions, Campionato e Coppa Italia. Così il passo dell'Udinese sembra decisamente indietro perché mostra una squadra in difficoltà in zona d'attacco. Oltre al gol, per i friulani, c'è soltanto un tiro centrale di Pagero che chiama in causa Provedel. Troppo poco per poter vincere una gara. Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese. È stato un bello schiaffo anche per me, ma non, secondo gol non direi che ci sono colpevoli. La Lazio è una squadra scomoda e sorniona, sta sempre lì e poi ti pizzica. Noi ci ha pizzicato con un tiro in porta e ci faremo lezione per la prossima volta. Le prossime tre sono con Fiorentina, Milan e Atalanta. Il rischio, quello di un gennaio molto rigido per l'Udinese. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il basket in A2, la Pallacanestro Trieste ha avuto ieri sera partita facile in casa contro il Piacenza. Sentiamo il commento del capitano della squadra giuliana Lodovico De Angelis sulla partita e sul prossimo appuntamento di venerdì, il derby contro Udine al Carnera, che Rai Sport trasmetterà in diretta. Una bella vittoria perché Piacenza l'abbiamo visto l'andata, ma in generale anche per il campionato che sta facendo, è una squadra molto tosta. Credo che, col massimo rispetto per tutti, perché sono un'ottima squadra, non sia semplicissimo trovare le giuste motivazioni quando tra 5 giorni c'è il derby, che è una partita speciale per l'ambiente, per le persone, per noi, e quindi penso che non era scontato approcciarla nella maniera giusta fino all'inizio. L'abbiamo fatto, ci sono state delle sbavature. Questo appuntamento, che è veramente molto prossimo, ormai fa scaldare tutto l'ambiente, e arrivarci così, arrivarci con 2 belle vittorie in casa consecutive, dà una bella spinta. Quindi giocare in casa è sempre un piacere, è sempre stato un piacere qua a Trieste. Da quanto so, i triestini saranno numerosi anche a Udine, quindi sarà un'atmosfera speciale. 59 squadre, 591 giocatori, 274 gare e poi 25 squadre junior suddivise in 2 categorie. Sono alcuni numeri del torneo di curling Bisiac che ieri si è concluso a Ronchi dei Legionari con la vittoria della squadra Villaraspa di Staranzano. Stadio del ghiaccio gremito a Ronchi per le finali del curling Bisiac, lo sport con le pentole sul ghiaccio che ha rivoluzionato le vacanze natalizie dell'Isontino. Lo scontro per il terzo posto vede in campo Eltec Bisiac Team di Pieris e Sulischan, ovvero Soleschiano, frazione di Ronchi dei Legionari. Parte bene Eltec 24-17 nella prima partita, ma Sulischan reagisce, pareggia 46-28 e poi si aggiudica il terzo match 38-22, conquistando la terza piazza. Finalissima inedita dopo l'eliminazione dei favoriti, i campioni uscenti delle Alci di Vermegliano e i loro rivali storici, gli adulatori di Ronchi. A disputarsi il titolo sono Villaraspa di Staranzano in tenuta rossonera e la rivelazione del campionato, la squadra Svolemo sul Jazz, Voliamo sul Ghiaccio, in casacca blu formata da lavoratori del Trieste Airport. Mani caldissime da entrambe le parti con precisione millimetrica, il primo match va a Villaraspa 64-57, il punteggio più alto mai registrato. Tifoseria in delirio. Nel secondo incontro Svolemo sul Jazz piazza pentole che sembrano decisive, soprattutto in apertura, ma la freddezza strategica di Villaraspa ricostruisce punto su punto e si aggiudica anche il secondo incontro 45-36. I diavoli rossoneri sono i campioni del Curling Bisiac 2024. È meraviglioso. Bisogna provare cosa vuol dire giocare al Curling Bisiac. Competizione, amicizia, una sensazione bellissima. Il gruppo si è fatto sempre più forte, coinvolge non solo la città, tutta la bisiacaria, il mandamento, e addirittura arrivano da fuori provincia per giocare a curling, e questo è un vanto per noi, per la nostra terra. E noi cosa facevo? Volevo! Ronchi dei Legionari, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli Cabaret The Musical, nella nuova produzione firmata da Arturo Bracchetti e Luciano Cannito, è ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Politeama Rossetti, dove va in scena da oggi a mercoledì 10 gennaio. Lo spettacolo trasporterà il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni 30, a un passo dall'avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane, in un momento storico distante ma nello stesso tempo anche molto attuale. La prima stasera alle 20:30. Il pianista di fama internazionale Luis Lurti sarà il protagonista del primo concerto dell'anno della Società dei Concerti alle 20:30 al Teatro Verdi di Trieste. Il musicista franco-canadese proporrà un programma in cui accosta l'innovativo Gabriel Fauré, melodista di primo piano, uno dei grandi rappresentanti della musica francese fra 800 e 900, a Franz Liszt. Come di consueto, alle 19:15 al ridotto del Verdi si terrà l'incontro pubblico col pianista e col direttore artistico della Società dei Concerti, Marco Secco. Sono le 12:54 minuti e